Si potrebbe presentare? Volentieri, io sono Luisa Canaglia, ho 55 anni e abito a Sarrada. Sapete che Sarrada è una frazione del comune di Folgaria. La mia attività è quella di barista. Io ho un bar con annesso tabacchino e questo è il mio lavoro. Ho 55 anni, non so se l'ho già detto, e da quando ho compiuto i 18 anni io lavoro appunto nel mio bar che prima è stato dei miei genitori. Si vive di sogni? Anche di sogni, si può vivere di sogni, si vive di sogni, sì. E quando ero piccola non pensavo che la mia attività sarebbe diventata quella della barista, ma i miei genitori avevano appunto questa attività avviata nel 1954 e quando purtroppo il mio papà si è ammalato, ho scelto io di proseguire la mia attività e quindi sono 34 anni che faccio questo lavoro. Quali sono state le aspettative? Le aspettative da piccolo bar di paese, io piano piano l'ho ammodernato e quindi l'ho reso insomma più bello, più frequentabile. E non solo, nel 2007 io ho fatto un altro investimento relativo alla mia attività, ho annesso il tabacchino, quindi io ho il bar con tabacchi e giornali. L'ho annesso perché a Serrada il tabaccaio storico stava chiudendo, ha deciso di chiudere e quindi il paese rimaneva senza tabacchino. Allora io mi sono detta posso implementare e completare la mia attività e quindi ho deciso di fare questo passo. Quali le difficoltà? Cosa significa aprire questo tipo di attività essendo donna follaria? Io non ho trovato nessun tipo di difficoltà, per il semplice fatto che appunto, la mia attività era iniziata nel 1954 con il mio papà e la mia mamma. Loro hanno costruito proprio il bar e l'hanno portato avanti fino al 1988. Nell'88, quando io mi sono diplomata ragioniera, ho deciso appunto di prendere in mano questa attività. Difficoltà non ne ho mai avute perché io ho sempre lavorato al bar, anche da piccolina io gironzolavo sempre per il bar, quindi i clienti mi hanno sempre vista lì e il nostro bar è diventato un po' un'istituzione e quindi difficoltà io devo dire che non ne ho trovate. Quali sono stati i risultati? Beh, i risultati appunto che ho ampliato la mia attività, sono riuscita insomma ad ampliare la mia attività investendo chiaramente dei soldi, però devo dire che adesso io ho realizzato quello che non è stato effettivamente il mio primo sogno, però quando ho capito che piuttosto che chiudere un'attività storica così era meglio portarla avanti, a me è sempre piaciuto il lavoro nel bar, soprattutto perché ci ho vissuta proprio da piccolina. E quindi adesso in questo momento io insomma in stagione ho sei dipendenti che mi aiutano nel lavoro stagionale e fuori stagione mi avvalgo di una collaboratrice, di un'altra ragazza, una ragazza di 25 anni che lavora con me e quindi posso dire che io mi sono realizzata nel mio lavoro. Come ha inciso il fatto di essere una donna sulle tue scelte di vita? Quali gli stereotipi incontrati? Ma lo ripeto, forse sono stata fortunata e quindi insomma difficoltà non ne ho trovate. Il fatto di essere donna, vabbè, in un ambiente del bar che forse soprattutto per il passato era prettamente maschile, cosa può essere successo? Qualche battuta, qualche scherzo, così, ma niente che mi abbia comunque impedito di voler proseguire la mia attività, di andare avanti e quindi, insomma, è un lavoro che faccio serenamente e, appunto, difficoltà non ne ho avute. Quali le strategie che ha messo in campo? Ho cercato di investire credendo nella mia attività. Forse sono stata facilitata dal fatto che era un'attività che comunque esisteva da tanto tempo. E adesso devo dire che la mia attività è diventata un po', tra virgolette, a livello del nostro paese un'istituzione, un punto di riferimento. Non dico che abbia anche uno scopo sociale, ma quasi quasi posso ammetterlo, perché per qualsiasi informazione, per qualsiasi richiesta, per qualsiasi problema ci sia, chiaramente il bar di paese è l'unico bar di paese, si va e insomma, si chiede e lì si hanno tutte le informazioni. E quindi, insomma, io sono anche orgogliosa di della mia attività e di essere arrivata ad avere questo, insomma, anche se adesso, insomma, è un periodo un pochino difficile, però è difficile per tutti e quindi io cerco di proseguire, insomma. Allora, il mio sogno, io appunto ho finito le scuole medie e mi sono iscritta a ragioneria. Ho fatto, quindi sono diventata, mi sono diplomata, sono diventata ragioniera. La mia idea sarebbe stata quella di iscrivermi a giurisprudenza e chiudere la mia attività, non avrei voluto. Quindi, ho deciso io, è stata una mia volontà, ma anche perché premetto, avendo sempre lavorato al bar, perché io anche quando andavo a scuola, il sabato pomeriggio e la domenica, davo sempre una mano ai miei genitori, sia alle medie, addirittura alle medie, e poi anche alle superiori. E quindi io non me la sono sentita di dire no, a me non interessa, chiudiamo e basta. E da lì praticamente, chiaramente, è scattata, come dice lei, insomma, quell'orgoglio di dire voglio che l'attività fondata dai miei genitori non vada a morire. Non è stato semplicissimo perché comunque è un lavoro che ti impegna tante ore, non hai tanto tempo a disposizione, ma io lo stesso mi sono riuscita a coltivare le mie passioni e quindi anche questo, devo dire, grazie al fatto che forse lavoravo nel mio, quindi non essendo dipendente non avevo bisogno di chiedere orari, non orari o cose di questo genere. Quindi nonostante tante ore di lavoro, però anche la possibilità di trovarmi i miei spazi. E quindi pian pianino, anno per anno, vedere poi che insomma facevano riferimento a me, questo sicuramente è stata una soddisfazione. Il fatto poi di investire, di ampliare, da altrettanta parte, pur con impegno anche questo, perché chiaramente accedere comunque ad un mutuo per ampliare l'attività, insomma, non sono cose semplicissime, insomma, anche perché io mi sono ritrovata a 21 anni a dover decidere se andare avanti con l'attività dei miei genitori o se fare qualcos'altro, a 20 anni, insomma, quindi. Come vedi il futuro? Il futuro. Io credo di poter continuare la mia attività, naturalmente. Voglio continuare la mia attività. Sappiamo perfettamente che in questo periodo soprattutto, insomma, la situazione, ma a livello mondiale è un po' difficile, ma io credo, insomma, che con tenacia e con costanza e con impegno, insomma, riuscirò a portare avanti la mia attività. Anche perché è un'attività che a me piace, che mi dà un sacco di soddisfazioni e quindi sicuramente arriverò. Il mio obiettivo è quello di arrivare alla pensione facendo la barista, lavorando nel mio bar. Poi, insomma, si vedrà. C'è un messaggio da dare a noi ragazzi? A voi ragazzi, allora il mio lavoro è un lavoro impegnativo perché occupa tante ore della giornata. È vero che adesso aprire un'attività probabilmente in un momento così difficile è difficile, però bisogna anche credere in qualche cosa e se non so a voi piacesse questo tipo di lavoro. Quello che io posso, il messaggio che io posso darvi è quello: appena avete la possibilità, andate a fare una stagione in un locale pubblico dove siete a contatto con tante persone diverse, dove avete modo, di, confrontarvi, avete modo, insomma, di conoscere tante persone, e anche per capire se poi questo potrebbe essere un lavoro che a voi piace. Conosci tante storie diverse, noi diventiamo anche un po' come psicologi. La gente viene, ci confessa anche delle cose che magari non dice a nessuno, però insomma si instaurano anche dei rapporti, ma anche con sconosciuti proprio, dei rapporti che poi magari col tempo, insomma, continuano nel tempo. Ecco, a Serrada, per esempio, ci sono turisti che vengono da non so quanti anni, da 50 anni, mi raccontano, mi hanno vista così e adesso, insomma, mi vedono a 55 anni, insomma. Però è bello, soprattutto nei paesi. Questo credo che si crei soprattutto nei paesi. Ecco, perché appunto i punti dove di riferimento non sono moltissimi e quindi ti affezioni anche a questo. Comunque è un lavoro che secondo me vi dà soddisfazione. Almeno a me ha dato un sacco di soddisfazione.